terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Le mie amiche frequentavano dei profughi ebrei tedeschi con i quali dividevano a volte quelle scure pietanze che il padre usava cucinare e abbandonare in cucina in larghi e neri tegami. Io incontravo a volte a casa loro quegli studenti che vivevano alla giornata e non sapevano cosa avrebbero fatto il mese dopo, se sarebbero riusciti a partire per la Palestina o se avrebbero raggiunto in America qualche cugino sconosciuto. Il fascino di quella casa sempre aperta a tutti, con lo stretto e buio corridoio in cui si inciampava nella bicicletta del padre, col salottino ingombro di mobili fastosi e consunti, di lumi ebraici e di piccole mele rosse della proprietà di Sassi stese a terra sui logori tappeti, era su di me profondo e costante. Si incontrava a volte il vecchio padre sulle scale o nel corridoio, sempre assorto nei suoi traffici d'avvocati e carte da bollo e sempre indaffarato a trasportare su e giù per le scale sporte piene di mele e di peperoni. Usava intrattenerci sulla sua causa, in piemontese, lisciandosi la grigia barba incolta e asciugandosi sotto al cappello la nobile fronte di vecchio profeta, mentre le figlie, impazienti, gli dicevano di andarsene nella sua stanza. S'avvicendavano di solito in quella casa donne di servizio spettrali e idiote, alle quali tuttavia non era consentito cucinare perché il padre voleva regnare da solo sulle vivande. E siccome non era loro consentito nemmeno spazzare il salotto per via dei lumi ebraici che potevano rompere e per via delle mele che potevano rubare, non si capiva bene cosa facessero. D'altronde, ciascuna veniva licenziata dopo qualche settimana e sostituita da un'altra, non meno idiota e spettrale. La casa si trovava in via Governolo. Fu distrutta nella guerra e io andai a vederla tornando dopo la guerra a Torino. E non c'era che un mucchio di rovine nel vecchio cortile e delle scale sventrate non restava che la ringhiera, là dove il vecchio padre saliva e scendeva con la bicicletta e le sporte. Il vecchio padre era morto da tempo, durante la guerra, ma prima dell'occupazione tedesca. S'era ammalato ed era entrato all'ospedale israelitico portandosi dietro un pollo che sperava gli lasciassero cucinare. Era morto solo perché le figlie erano una in Africa dove s'era sposata e l'altra, quella risoluta, a Roma dove studiava legge. L'altra mia amica si chiamava Marisa e abitava in Corso Re Umberto, ma al fondo, in un punto dove il corso formava come uno spiazzo erboso, finivano i viali e c'erano i capolinea dei tram. Era piccola e graziosa, non faceva che fumare e farsi ai ferri certi bei berettini che calzava poi con molta grazia sulla testa rossa e riccioluta. Si faceva anche dei pullover. «Mi farò un bel pullover», diceva con la sua pronuncia blesa, e aveva gran varietà di questi bei pullover, col collo alto e rivoltato che portava sotto al paltò di cammello. Aveva avuto un'infanzia ricca, soggiornando in stazioni climatiche e alberghi di lusso e ballando, quasi ancora bambina, negli stabilimenti balneari. Poi la sua famiglia aveva avuto un dissesto economico. Lei conservava di quella vita vicina, ma antica, un ricordo insieme affettuoso e ironico, del tutto privo d'amarezza o rimpianto. Aveva una natura pigra, fidente e serena. Marisa, nell'occupazione tedesca, fece la partigiana e mostrò un coraggio straordinario che non si sarebbe mai sospettato nella ragazzina pigra e fragile che era stata sempre. Poi diventò una funzionaria del Partito Comunista e votò la propria vita al partito, ma restando nell'ombra, perché era priva di ogni ambizione e modesta, umile e generosa. Ragionava soltanto di questioni di partito, diceva «il partito» con la sua pronuncia blesa, e lo diceva con lo stesso accento di attesa serena e fidente col quale diceva «mi farò un bel pullover». Non volle mai sposarsi, perché mai un uomo le parve coincidere con l'ideale di uomo che lei aveva e conservava nel tempo. Un uomo che non sapeva descrivere, ma i cui connotati erano, nella sua immaginazione, inconfondibili. Quelle mie tre amiche erano ebree. Cominciò in Italia la campagna razziale. Ma loro, frequentando quegli ebrei stranieri, si erano inconsciamente preparate a un futuro incerto. D'altronde erano abbastanza spensierate da accettare una simile situazione senza ombra di panico. Andavamo, loro e io, ancora all'università, ma esclusa quella energica e risoluta, studiavamo con disordine e senza impegno. Quanto al vecchio padre delle mie due amiche di via Governolo, all'inizio della campagna razziale ricevette un modulo dove era scritto «Segnalare onorificenze e meriti speciali». Rispose così: «Ho fatto parte nel 1911 del club dei rari Nantes e mi sono tuffato nel Po in pieno inverno. In occasione di certi lavori effettuati nella mia casa, l'ingegner Casella mi ha nominato capomastro». Mia madre non era gelosa di quelle mie amiche, come era invece sempre gelosa delle amiche di Paola. Mia madre, quando io mi sposai, non sofferse come invece aveva pianto e sofferto quando la Paola s'era sposata. Non aveva con me, mia madre, un rapporto di parità, ma aveva invece un rapporto materno e protettivo. E non sentì la mia mancanza in casa, un poco perché io, come sempre diceva, non le davo spago, e un poco perché, essendo invecchiata, si era ormai rassegnata al vuoto che lasciano i figli quando se ne vanno, e aveva difeso e ovattato la sua vita in modo da non sentire tanto l'urto di quel distacco. Sembrava che i soli ottimisti rimasti al mondo fossero Adriano e mia madre. La Paola Carrara, tutta imbronciata nel suo salottino, invitava ancora Salvatorelli la sera, aspettando inutilmente da lui parole di speranza. Ma Salvatorelli appariva buio. Tutti erano sempre più bui e più tetri. Non si dicevano parole di speranza. Circolava attorno un oscuro spavento. Adriano, tuttavia, sapeva da un suo informatore che il fascismo aveva vita breve. Mia madre si rallegrava ascoltandolo, batteva le mani, ma le veniva a volte il sospetto che quel famoso informatore fosse in realtà una chiromante. Adriano usava a consultare certe chiromanti, ne aveva una in ogni città dove andava, e diceva che alcune erano bravissime e avevano indovinato cose sue del passato, alcune anche leggevano nel pensiero. Adriano trovava, del resto, abbastanza usuale il fatto che la gente leggesse nel pensiero. Diceva di qualcosa che suo padre sapeva, gli si chiedeva come avesse fatto a saperlo. «L'ha letto nel pensiero», rispondeva con tranquillità. Mia madre accoglieva Adriano sempre con la più viva gioia, perché gli voleva bene e perché sempre aspettava da lui notizie che alimentassero il suo proprio ottimismo. Adriano, infatti, usava pronosticare per noi tutti il più alto e fortunato destino. Leone sarebbe diventato, diceva, un grandissimo uomo di governo. «Che bellezza!» diceva mia madre, giungendo le mani e come se la cosa fosse già avvenuta. «Diventerà presidente del consiglio!» «E Mario?» chiedeva. «Mario cosa diventerà?» Adriano su Mario aveva più modesti progetti. Non sentiva grande simpatia per Mario, diceva che aveva troppo spirito critico e anche lui trovava che avesse fatto male a staccarsi dal gruppo dei Rosselli. E forse inconsciamente gli serbava rancore di essersi impiegato alla fabbrica tanti anni prima per subito cospirare, farsi arrestare e fuggire. «E Gino? E Alberto?» continuava a chiedere mia madre. E Adriano, con pazienza, pronosticava. Mia madre nelle chiromanti non credeva. Faceva però ogni mattina, mentre beveva il caffè in vestaglia nella sala da pranzo, molti solitaire. Diceva: «Vediamo se Leone diventa un grande uomo di governo. Vediamo se Alberto diventa un grande medico. Vediamo se qualcuno mi regala un bel villino». Chi dovesse regalarle un bel villino non era ben chiaro. Non certo mio padre, il quale era sempre più preoccupato dei soldi e di nuovo gli sembrava d'averne pochissimi, ora che c'era la campagna razziale. «Vediamo se il fascismo dura un pezzo», diceva mia madre rimestando le carte e scuotendo i grigi capelli, al mattino sempre inzuppati d'acqua e versandosi ancora caffè. Al principio della campagna razziale, i Lopez erano partiti per l'Argentina. Tutti gli ebrei che conoscevamo partivano o si preparavano a partire. Nicola, il fratello di Leone, era emigrato in America con la moglie. Avevano là uno zio, lo zio Khan, un vecchio zio che non avevano mai visto in faccia perché era partito dalla Russia ragazzo. Leone e io, a volte, parlavamo di andare anche noi in America dallo zio Khan. Ci avevano levato, però, a lui e a me, il passaporto. Lui aveva perso la cittadinanza italiana, era diventato apolide. «Se avessimo il passaporto Nansen», io dicevo sempre, «se avessimo il passaporto Nansen». Era un passaporto speciale che concedevano a certi apolidi importanti. Lui una volta me ne aveva accennato. Avere il passaporto Nansen mi sembrava la cosa più bella del mondo. Eppure, in fondo, non avremmo voluto, né lui né io, andarcene dall'Italia. Lui aveva avuto, quando ancora forse gli sarebbe stato possibile partire, l'offerta di lavorare a Parigi, nel gruppo che era stato di Rosselli. Aveva rifiutato. Non voleva diventare un emigrato, un fuoriuscito. Pensavamo, tuttavia, ai fuoriusciti di Parigi come esseri meravigliosi, miracolosi, e ci sembrava straordinario il fatto che là qualcuno potesse incontrarli per strada, toccarli, stringergli la mano. Io non vedevo Mario da anni, non sapevo quando l'avrei rivisto. Anche lui faceva parte di quella folla meravigliosa. Poi c'erano Garosci, Lussu, Chiaromonte, Cafi. Salvo Chiaromonte, che avevo conosciuto dalla Paola al mare, io gli altri non li avevo mai visti. «Com'è fatto Garosci?» chiedevo a Leone. Parigi era là, non tanto lontano, io pensavo andando sul Corso Francia. Pensavo si trovasse proprio al fondo di Corso Francia, di là dalle montagne, in quel velo di nebbioline azzurre. E tuttavia ci separava da Parigi un baratro. Altrettanto irraggiungibili e miracolosi ci sembravano quelli che erano in carcere. Bauer e Rossi, Vinci Guerra, Vittorio. Sembravano sempre più lontani. Sembravano sprofondare in una lontananza sempre più buia, che assomigliava alla lontananza dei morti. Possibile che in un passato ancora così prossimo Vittorio camminasse nel corso Re Umberto col suo mento prominente? Possibile che avessimo fatto con lui e con Mario il gioco dei vegetali e dei minerali? Thank you. Mio padre, anche lui, aveva perso la cattedra. Fu invitato a Liegi a lavorare in un istituto. Partì e lo accompagnò mia madre. Mia madre rimase nel Belgio qualche mese. Era però tristissima e scriveva lettere disperate. A Liegi pioveva sempre. «Malignazzo di un Liegi», diceva mia madre. «Malignazzo Belgio!» Mario da Parigi le scrisse che anche Baudelaire non poteva soffrire il Belgio. Mia madre non amava molto Baudelaire, il suo poeta era Paul Verlaine, ma subito apprese Baudelaire in grande simpatia. Mio padre invece a Liegi lavorava bene e s'era fatto anche un allievo, un giovane che si chiamava Chevremont. «Salvo Chevremont e la padrona di casa, i belgi non mi piacciono», diceva mia madre al suo ritorno in Italia. Riprese dunque la solita vita. Mi veniva a trovare, andava a trovare Miranda e la Paola Carrara e andava al cinematografo. La Paola, mia sorella, aveva preso un appartamento a Parigi e svernava là. «Ora che non c'è Beppino e son sola, farò economia», dichiarava ogni momento mia madre, sentendosi povera. «Mangerò poco. Una minestrina, una braciola, un frutto». Recitava ogni giorno questo menù. Credo che le piacesse dire «un frutto», perché ne ricavava un senso di frugalità. Riguardo alla frutta, usava comprare sempre certe mele chiamate a Torino «carpandu». Diceva «son carpandu», come diceva di una maglia «è di Neuberg» e di un paltò «è del signor Bellhomme». Quando capitava che mio padre si lamentasse delle mele che venivano a tavola trovandole cattive, mia madre diceva stupita «cattive? Son carpandu?» «Chissà perché mi piace tanto spendere», sospirava a volte mia madre. Difatti, non riusciva ad attenersi al regime d'economia che s'era prescritto. Al mattino, in sala da pranzo, faceva i conti con la Natalina, dopo i solitaire, e litigavano, la Natalina e mia madre, perché anche alla Natalina le piaceva spendere, aveva le mani bucate. La Natalina, facendo da mangiare, ne faceva, diceva mia madre, anche per i poveri della parrocchia. «Ieri hai fatto un piatto di carne che ce n'era anche per i poveri della parrocchia», diceva. «Se faccio poco lui mi sgrida, se faccio di più lui mi sgrida. Ieri lui mi ha detto che veniva anche la Tersilla», diceva la Natalina muovendo le grosse labbra e gesticolando concitata. «Stai ferma, non agitar le mani. Hai il grembiale sporco, perché non ti cambi con tanti grembiali che t'ho comprato, che ne hai anche per i poveri della parrocchia?» «Oh, povera Lidia», sospirava mia madre rimestando le carte e versandosi ancora caffè. «Mi hai fatto un caffè che è una sbroscia, non potresti farlo più forte?» «È la macchinetta che non è buona. Se lui mi compra un'altra macchinetta, gliel'ho detto 100.000 volte, questa ha i buchi troppo grossi, passa giù troppo presto. Invece lei deve passare adagio, lei è delicato il caffè». «Come vorrei essere un re fanciullo», diceva mia madre con un sospiro e un sorriso, perché le cose che più la seducevano al mondo erano la potenza e l'infanzia, ma le amava combinate insieme, così che la seconda mitigasse la prima con la sua grazia e la prima arricchisse la seconda di autonomia e di prestigio. «Ma guarda che brutta veggia che sono diventata», diceva infilandosi il cappello davanti allo specchio, cappello che metteva semplicemente perché se l'era comprato e costava molto, ma che si sarebbe levato sul primo angolo di strada. «Pensare che mi piaceva tanto esser giovane. Oggi mi sembra di aver 40 anni, diceva la Natalina sulla porta. «Lui ne ha altro che 40, lui ne ha quasi 60 perché ne ha 6 più di me», diceva la Natalina agitando la scopa minacciosamente, perché usava parlare sempre in tono concitato e con espressione minacciosa. «Con quel fazzoletto», le diceva mia madre, «non sembri Luigi XI, sembri Marat», e usciva di casa. Passava da Miranda. Miranda girava per casa, stanca, esangue, con i biondi capelli spioventi sulle guance, e sembrava scampata da un naufragio. «Ma lavati la faccia con l'acqua fresca, ma vieni a spasso», le diceva mia madre. L'acqua fresca era per mia madre un rimedio sicuro contro la pigrizia, le malinconie e i malumori. Lei stessa si lavava la faccia con l'acqua fresca più volte nella giornata. «Spendo poco, io e la Natalina sole spendiamo poco. Un brodo, una bracciola, un frutto», recitava mia madre. «Figurati se spendi poco, una spendacciona come sei», diceva Miranda, e diceva «io per oggi ho comprato un pollo. Io il pollo lo trovo conveniente. Miranda diceva il pollo con un'intonazione particolare, una cantilena strascicata e nasale che aveva quando opponeva le abitudini di casa sua a quelle di casa nostra e quando provava nei nostri confronti un senso di superiorità. Oltre è essere sola come sei te, oltre è avere Alberto che non è mai sazio, continuava Miranda, che diceva sempre oltre per altro quando voleva mettere a confronto due situazioni diverse. Mio padre rimase nel Belgio 2 anni. Accaddero in quei 2 anni molte cose. Mia madre andava sul principio a trovarlo ogni tanto, ma a parte il fatto che il Belgio le metteva malinconia, era anche sempre timorosa che gli avvenimenti internazionali la tagliassero fuori dall'Italia e da me. Mia madre sentiva per me un senso di protezione che non sentiva per gli altri suoi figli, forse perché io ero dei suoi figli la minore. E quando nacquero i miei bambini, estese anche a loro il medesimo senso di protezione. Inoltre, le sembrava sempre che io fossi in pericolo, perché il leone, di tanto in tanto, lo arrestavano. Lo arrestavano, per ragioni precauzionali, ogni volta che veniva a Torino qualche autorità politica o il re. Lo trattenevano in carcere per 3 o 4 giorni, poi lo rilasciavano appena quell'autorità ripartiva. E Leone tornava a casa con le guance nere di barba e un involto di biancheria sotto il braccio. «Malignazzo re, se ne stia un po' a casa sua», diceva mia madre. Il re di solito la faceva sorridere e non le era antipatico. Le piaceva che avesse le gambe tanto corte e storte e che fosse tanto stizzoso. Però la indispettiva che arrestassero Leone ogni volta per colpa di quel sempio. Quanto alla regina Elena, non la poteva soffrire. «Una bellona», diceva, termine per lei dispregiativo, «una paesana, una stupida». I miei 2 primi bambini nacquero, a 1 anno di distanza l'uno dall'altro, nel tempo che mio padre era in Belgio. Mia madre, con la Natalina, lasciò la sua casa e venne a stare con me. «Sono di nuovo nella via Pallamaglio», disse mia madre. «Ma ora mi sembra un po' meno brutta la via Pallamaglio». Forse è perché faccio il confronto col Belgio. Liegi è peggio della via Pallamaglio. I miei 2 bambini le piacevano molto. Mi piacciono tutte e 2, non saprei quale scegliere, diceva come se fosse tenuta a sceglierne uno. Oggi lui è bellissimo, diceva, e io chiedevo, quale? Quale? Il mio, diceva mia madre, e io continuavo a non capire a chi si riferisse, perché spostava ogni momento la sua predilezione dall'uno all'altro dei 2 bambini. Quanto alla Natalina, diceva lei, parlando di ciascuno dei bambini, perché erano tutti e 2 maschi, diceva «Lei non bisogna mica svegliarlo, resta strano se lo svegliano, lei tocca poi passeggiarlo 2 ore perché resta strano». Siccome io mi stancavo con quei 2 bambini piccoli e la Natalina era troppo sbadata e concitata per occuparsene, mia madre mi consigliò di prendere una balia asciutta. Scrisse lei stessa in Toscana certe sue antiche balie con le quali aveva conservato rapporti, e la balia arrivò, ma proprio nei giorni che i tedeschi avevano invaso il Belgio, per cui eravamo tutti angustiati e poco inclini a dar retta a una balia con le sue esigenze di grembiali ricamati e di gonne a campana. Tuttavia mia madre, benché in ansia per mio padre di cui non aveva notizie, trovò un modo di comprare i grembiali e anche di rallegrarsi al vedere la grande balia toscana con la gonna larga e frusciante a girarsi per casa. Io invece mi sentivo con quella balia profondamente a disagio e rimpiangevo l'antica Martina che era tornata al suo paese in Liguria perché con la Natalina non andava d'accordo. Mi sentivo a disagio perché quella balia avevo continuamente paura di perderla, paura che ci giudicasse, noi con le nostre modeste abitudini, indegni di lei. Inoltre quella balia, grande, con quei grembiali tutti ricamati e le maniche a sbuffo, mi ricordava la precarietà della mia situazione e mi ricordava che ero povera e che non avrei potuto, senza il soccorso di mia madre, tenere una balia. E mi sembrava di essere nei divoratori, Nancy, quando guarda dalla finestra la sua bambina camminare per mano alla sontuosa balia sul viale e sa intanto che hanno perduto al casinò tutti i loro denari. Anna Bonaiuto ha letto Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Regia di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it